da martedì 4 ottobre dalle 17 alle 23 sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. Vogliamo dedicare l'apertura di oggi alle donne che sono morte a Barletta sotto le macerie di un palazzo, la morte annunciata. Il palazzo aveva già delle crepe molto grandi da 3 giorni, il datore di lavoro ha detto no, ve le siete dipinte voi. Eh sì, noi le volevamo ricordare, si uniscono insomma le tante vittime del lavoro, in questo caso si tratta di 5 operaie che appunto lavoravano nel maglificio, sono Antonella Zazza, Giovanna Sardaro, Matilde Doronzo, Tina Cenci e appunto sono morte e sepolte sotto una montagna di macerie e anche Maria Cinquepalmi di soli 14 anni, la figlia dei titolari appunto del maglificio. Bitch who was boss round here whipped her ass proper, then fucked her the same way. Proper, then fucked her the same way. Proper. Chained us to the ship, treat us like a motherfucking bunch of misfits, then say stop talking all that slave shit. Watch we uprise, we gonna uprise, uprise. Went into the fields alone this morning. Came out in the evening, plus one. No pomp, no circumstance. Up with the sun next day. Mama, with baby on back. Beh, oggi è 4 ottobre e c'è chi festeggia Santi e Santini, invece noi la nostra santa è santissima, è Janis Joplin, che il 4 ottobre di 41 anni fa moriva, e ci ascoltiamo una canzone per ricordarla, e la possiamo iscrivere diciamo tra i miti le mite fondatrici di una storia e del rock. Miti ma non di carattere. Just a little bit harder, so I can love. try some more. I said try. E ve la state cantando? Ecco, adesso noi ve le, sì. Adesso ve le cantiamo noi, vi cantiamo il... ve ne cantiamo 4, sì, 4, 5, 6, il palinsesto di oggi. E vai. E vabbè, vi presento io a voi perché siete qui oggi fra poco fino alle 18:15, un incontro, un doppio appuntamento tra Spirito di Patata, la trasmissione di Femminismo Pop, e una new entry, Megaphone X, la musica vista dal cielo, una trasmissione musicale e geopoliticale di alta altitudine che amplifica i suoni e il rumore delle cantanti e musiciste del mondo. Già da questa spiegazione penso che tutte e tutti saranno all'ascolto curiose. E devono aspettare. Aspettate di un po' che di sì. Più. E poi dalle 6:15 alle 19:20 ci saranno attimi sfatti, appuntamenti, iniziative, riflessioni, storia di femministe e lesbiche in Italia e nel mondo. Oggi, tra le altre cose, parliamo di... Allora, presentiamo, ci sono? Sì, sì. Ah, ok. Presentiamo il sito www.zeroviolenzadonne.it, uno dei siti che consultiamo, .org. Ora, quando arriverà la curatrice ne sapremo di più. Cioè, beh, .org.it, ok, e faremo comunque una il sito è Zero Violenza Donne. Zero Violenza Donne, esatto. È uno dei siti che appunto noi di solito consultiamo insieme a tanti altri. Ci piacerebbe ospitare in radio tutte le compagne, le femministe, le lesbiche che gestiscono dei siti, dei blog che hanno interesse anche per altre. Quindi questo è, speriamo, il primo di una serie. Sarà presente Monica, che è la curatrice del sito, e lo navigheremo in diretta con lei. E poi parte il progetto Sala da te all'ex 51, che inaugura la apre in bellezza con la presentazione del libro Ora è qui di Elisabetta Teghil l'8 ottobre. Elisabetta è proprio lei, quella della virgola di Elisabetta. Ebbene sì. Le virgole infatti ritornano. Il Pippo Baudo. L'ho scoperta io, sì. No, non l'abbiamo scoperta io, l'abbiamo scoperta noi, ma nemmeno questo è vero, non sarebbe dare giustizia. Elisabetta è brava. Soprattutto si scopre da sola. Sì, si scopre da sola e sì, sarà un po', non è uno spottino, però ci piace raccontare e dire a tutte quante che c'è questa presentazione. Eh sì. È un bel Ce momento. N'è anche un'altra di cui sempre oggi parleremo in agenda. Vado io. Oh. Parleremo del libro di un'altra compagna, Silvia Cristofori, che ha scritto Il movimento pentecostale nel post-genocidio ruandese. Altro argomento comunque molto interessante. Ci sarà una presentazione a Magliana, al Centro Sociale Macchia Rossa. Lanceremo questa iniziativa, poi speriamo di poter ospitare Silvia qui dai nostri microfoni e parlarne con lei. Questa presentazione si terrà l'8 ottobre. Poi alle 19:20 ci sarà, la virgola di Elisabetta, oggi su separatismo, lotta femminista e lesbica e lotta di classe. Alle 19:30 GR serale spazio comunicazione a cura del martedì autogestito da femministe e lesbiche. E poi vai col mini pimer dalle 20:15 alle 21:15. Oggi parliamo della Lady Fest, ascolteremo voci, registrazioni, cose random di quell'esperienza, verranno anche a trovarci. E il punto della situazione. E faremo il punto della situazione per poi insomma approdare forse all'anno prossimo anche con una nuova Lady Fest. E dalle 21:15 alle 22 è una calamità di cui si rendono perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane, che sarà con noi. Quest'anno sarà con noi da anni per la 300esima e forse di più puntate. Loro lo sanno, abbiamo sì. Infatti dovremmo chiederle quante puntate sono, sì, per concludere il martedì di oggi, primo della stagione, Sister Wound is Blooming. Eh sì, anteprime, concerti, nuove uscite dal panorama della musica indie internazionale al femminile condotto da Donna Sonica e La Musique, eccole qua, sono già presenti e devono tirare fino alle 23, non so che succederà. Andranno a prendere le birre e le patatine. Certo. E...